Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei Magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Questa canzone, la stessa che avete appena ascoltato e che continua ad accompagnarci in sottofondo, è ormai diventata un vero e proprio classico. Capita spesso di sentirla nei bar, nelle discoteche, sulle spiagge, dappertutto. E pensare che nel 2012 ha compiuto ben 34 anni di età. Gianna, infatti, è un successo del 1978, scritto e cantato da un giovanotto che di nome faceva Rino Gaetano. Con questa canzone Rino ci è andato a Sanremo e ha rischiato addirittura di vincere il Festival della Canzone Italiana. Arrivò terzo dietro agli onnipresenti Mattia Bazar e alla giovanissima Anna Oxa al suo esordio con la strepitosa Un'emozione da poco, scritta da Ivano Fossati. Rino Gaetano non voleva nemmeno portarla, la sua Gianna, a Sanremo. Temeva di non essere capito, di essere preso per un cantante troppo giocoso. Il dramma del sentirsi incompreso, del resto, ha caratterizzato buona parte della sua carriera, per non dire tutta quanta. È sempre rimasto in bilico, da vivo, tra il tormento di non essere capito e quello di doversi per forza collocare in un universo musicale, discografico, popolato unicamente da cantautori impegnati per forza. A parlarcene è il critico musicale Dario Salvatori. Rino Gaetano non era visto di buon occhio perché era un disimpegnato e quella non era una stagione in cui i disimpegnati venivano visti molto bene. Gli anni 70, i cosiddetti anni di piombo funestati dall'incubo del terrorismo politico e della lotta armata, per la maggior parte degli italiani non sono il tempo adatto alla spensieratezza. Ma le canzoni di Rino Gaetano, a ben guardare, sono tutt'altro che spensierate. Sono spesso un ritratto scanzonato e ironico, ma non per questo meno impietoso, delle virtù e dei vizi di un popolo intero. Quella di Rino Gaetano è l'arte del riderci su con intelligenza. Ecco come ne parla con Enzo Siciliano. Secondo me, guarda, questo qui non è una cosa mia, credo che sia l'arte di tutti gli italiani, soltanto che adesso vogliamo nasconderla, chissà perché ci siamo ritrovati tutti quanti molto impegnati, molto tristi, molto macabri. Beh, visto, sai, dicono che viviamo delle giornate tranquille, allora ma forse no, è ma no, ma non è vero, ma cioè non è vero, però l'Italia è stata, non lo so, è stata sempre la patria dei vari Pietrolini, Totò, questa gente qui. Adesso invece ci sono soltanto scrittori che scrivono libri tristi, impegnatissimi. o anche canzoni tristi. Le canzoni di Rino Gaetano, invece, anche quando affrontano tematiche serissime, sono tutt'altro che tristi, sono scanzonate, all'occorrenza lievi, spiritose. Forse è proprio per questo che in un clima di preoccupazione generale per le sorti del paese non vengono capite. Anche Rino, come molti altri artisti prima di lui, in vita è stato per lo più incompreso. In compenso l'eco dei suoi deliri, dei suoi sproloqui solo apparentemente caotici, dei suoi squisiti nonsense, è arrivata intatta fino ad oggi. Quanti altri artisti prima di lui hanno faticato a trovare comprensione? La storia delle arti in generale è costellata di incompresi. Da Edgar Allan Poe a Vincent Van Gogh, da Lorenzo Lotto a Charles Baudelaire. Tutti uomini che finché sono stati al mondo non hanno potuto godere appieno dell'apprezzamento altrui. Rino Gaetano è molto più famoso ora di quanto non lo fosse alla fine degli anni 70, nel fior fiore della sua carriera. Un percorso il suo che parte lontano dai luoghi della capitale che lo vedranno diventare un giovane e talentuoso cantautore. A Crotone il mare, lo Ionio, è così cristallino che ti ci puoi specchiare. Questo tratto di terra calabrese è splendido così com'è, eternamente sospeso tra i gloriosi resti della Magna Grecia e le palazzine venute su come funghi con lo straordinario boom economico del dopoguerra. È qui che nasce Salvatore Antonio Gaetano, tra le 6 e le 9 del mattino del 29 ottobre 1950. Se mai qualcuno capirà, Gli anni 50 sono ancora un'epoca in cui è normale vivere tutti ammassati in un unico appartamento. Nonni, zii, nipoti, grandi e piccini di casa Gaetano condividono tutti lo stesso tetto a due passi dal mare. Mio padre lavorava al forno. Mia madre invece all'epoca ancora si rammagliavano le calze che portiamo noi donne. Gente umile, i Gaetano. Gente che ha voglia di lavorare. Gente che non sempre ha tempo di badare ai figli. E allora ben venga che lì ci siano anche i nonni che possono occuparsene quando mamma e papà sono altrove. Rino e sua sorella Anna, che abbiamo appena sentito, giocano insieme, giocano tantissimo. In casa, per strada, sulla spiaggia. Il mare è proprio lì, a due passi. Capita spesso che il pallone, lanciato con tutta la forza che si ha in corpo a quell'età, finisca arenato sulla sabbia poco lontano. Rino insiste sempre per andarlo a riprendere lui, il pallone. Così può sentire da vicino il rumore delle onde, riempirsi le orecchie con quel fruscio poetico. Magari addirittura raccogliere qualche frammento di conchiglia o di vetro ormai arrotondato, consumato dalla furia dell'acqua. Rino praticamente era un bambino molto, molto, diciamo, vivace, molto intuitivo. Rino è un bimbo vispo, ma non scalmanato o impertinente come tanti suoi coetanei. La sua vivacità è data soprattutto dalla curiosità. È capace di stare per ore fermo ad osservare e studiare una cosa, se quella cosa lo attrae in maniera particolare. Non è raro vederlo da solo, seduto su qualche muretto assolato, intento nei suoi pensieri. Forse la musica gli ronza in testa sin da piccolo. Forse quando si perde nelle sue strane lucubrazioni ha già in mente delle note, dei motivetti, forse fischietta, forse... chi lo sa? Fiorini! Sfiorivano le viole e il sole batteva su di me e tu prendevi la mia mano. Il primo episodio che testimonia l'innato senso musicale di Rino risale al 1953. Un giorno dell'estate di quell'anno Rino cade dalla sua biciclettina mentre sta scorazzando nei pressi di casa. Forse cadendo non si è rotto niente, ma meglio non rischiare. I genitori lo portano immediatamente all'ospedale di Crotone. Qui, sdraiato in un lettino d'ospedale per bambini, di quelli con le sponde alte in ferro, Rino non può far altro che ascoltare ininterrottamente le melodie che provengono dalla radiolina della sua anziana compagna di stanza. Rino, nel dormiveglia, nemmeno se ne accorge, ma balla, balla tutto il tempo. Si muove continuamente, pur da disteso, al ritmo della musica. L'infanzia vagamente idilliaca in Calabria viene interrotta quando Rino ha 10 anni. È a quell'età che tutta la famiglia si trasferisce nella capitale in cerca di un lavoro e di un futuro migliori. Il padre di Rino è stanco di lavorare nel forno, di stare in piedi tutte le notti, di consumare inesorabilmente il suo fisico ancora giovane. A Roma ha trovato un posto come portiere di uno stabile nel quartiere di Montesacro, a nord-est di Roma. È proprio qui che Rino trascorrerà gran parte della sua vita. E poi mia madre e mio padre, dato che mio padre, come al solito, insomma, sempre cardiopatico, malaticcio, così, avevano poco tempo da dedicare a Rino e lo mandarono in collegio, a Narni, vicino Terni. Così, un pomeriggio del settembre del 1962, quando Rino ha 12 anni, la mamma lo accompagna alla piccola opera del Sacro Cuore, una scuola apostolica di Narni, in Umbria. Si tratta di fatto di un seminario, anche se Rino non è affatto deciso a diventare sacerdote, e nemmeno i suoi genitori, a dire il vero, pensano che lo diventerà mai. Ma sono cattolici, Gaetano, gente religiosa, non certo invasata, ma di sani principi. Il seminario sembra loro il posto migliore dove far crescere il ragazzo in loro assenza, affidato alle cure dei sacerdoti e protetto dalle insidie di una città cui forse non è ancora del tutto abituato. Ce ne parla Don Renato Simeoni, uno dei sacerdoti che a Narni fecero da insegnanti a Rino. È come se lui avesse qualche cosa in cui rifugiarsi, in cui trovava una specie di consolazione. Non è che disprezzasse, perché anche lui sentiva l'importanza dello studio, però aveva anche dei momenti di grande assenza, che non era vuoto. Era molto difficile scoprire o trovare Rino in situazione di vuoto. Era sempre mentalmente occupato. C'erano dei gusti, questo mi è sempre sembrato a me, dei gusti all'interno di questa persona, delle ricerche sue personali, e che lo tenevano occupato. Rino è stato abbastanza un ragazzo sognante, molto sognante. Rino scarabocchia in continuazione sui suoi quaderni, dando vita alle prime timide bozze di quelli che poi diventeranno i testi delle sue canzoni. Scrive anche piccoli poemi, rielaborazioni personali di classici della letteratura, da Dante a Manzoni. Molte di quelle parole un giorno troveranno posto nei suoi brani più famosi. Mentre la notte scendeva diceva stellata, stellata. Lei affusolata nel buio sognava incantata. E chi mi prende la mano stanotte, mio Dio? Forse un ragazzo, il mio uomo, o forse io? Se la creazione di testi già incredibilmente profondi e arguti lo impegna sin dagli anni della scuola, che ne è invece della musica? Quella incredibilmente gli è preclusa. Rino è stato escluso dal coro della chiesa del seminario. Il motivo? Semplice. È stonato. Mentre i suoi compagni si dilettano ad accompagnare i salmi cantando a squarciagola, Rino li osserva restando muto. Un bel paradosso per uno che di mestiere farà il cantante. I genitori nel frattempo gli hanno regalato una chitarra. Gliel'avevano promessa già da tempo e sono dispiaciuti oltretutto per il fatto che Rino debba sempre stare lontano da casa. Ma la realtà che lo aspetta al suo rientro a Roma a metà degli anni 60 è piena di aspettative e di fermento, musicale soprattutto. Veronica! Amavi solo la musica sinfonica, ma la suonavi con la fisarmonica. Un cantautore del calibro di Enzo Iannacci sarà determinante negli anni della crescita di Rino non solo come ragazzo, ma anche come artista. Un'influenza, quella di mostri sacri come Iannacci e Gaber, che si farà sentire in maniera molto forte nelle sue future composizioni. Rino utilizzava spesso l'ironia come strumento per descrivere le problematiche e malesseri della nostra società, riallacciandosi a modelli comunicativi precedentemente utilizzati da Giorgio Gaber, per esempio, Enzo Iannacci. Ecco, che rapporti aveva con questi cantatori? Cosa pensava? Prima di tutto lui li conosceva. Secondo il dottore a casa c'è, parlo come poco 300 dischi, tutta la collezione sua, appunto di Gaber, di eccetera eccetera, tanti altri, cantanti. E Iannacci, insomma. Il gusto per le rime spiritose e argute, l'ironia a tratti sottile e a tratti graffiante, tutte caratteristiche tipiche di Gaber e Iannacci, saranno un punto di riferimento imprescindibile per la formazione personale e professionale di Rino. E questo professionale non ha certo a che fare con le professioni tradizionali, con i normali mestieri cui può ambire un ragazzo della sua età con in mano uno straccio di diploma di ragioniere. Rino di quel diploma non ne farà mai niente. Non che resti con le mani in mano, però, tutt'altro. Si barcamena come può, accetta lavori a destra e a manca pur di coltivare la sua unica vera passione, quella per la musica. Non ha intenzione di dedicarsi a nient'altro nella vita. Ha lavorato dentro una libreria, ha lavorato dentro un bar. Gli trovarono, diciamo, da lavorare in banca. E però all'epoca non era come adesso che, diciamo, uno veste così. Io li vedo in banca, vestono normale, come noi. Invece all'epoca era rigoroso mettersi cravatta e giacca e camicia. E lui odiava queste cose. Anna, la sorella di Rino, ricorda vividamente l'aria schifata del fratello posto di fronte all'idea di sedersi dietro a uno sportello di banca. Un posto sicuro, insistono i genitori, ma a lui sembra peggio di una punizione. Rino, negli ultimi anni di scuola, oltre a dilettarsi con la stesura di testi surreali e col tentativo di metterli in musica strimpellando come un forsennato la sua chitarra, ha anche iniziato a frequentare l'ambiente teatrale. Un elemento anche questo importantissimo per il suo futuro artistico. Il palcoscenico è molto meglio della scrivania di un impiegato. Dunque, tu hai dei precedenti teatrali, mi pare, no? Tu hai incominciato facendo il teatro. Sì, io ho fatto del teatro, Dunque, io ho fatto tutto un giro per le scuole molto interessante, che era un giro proprio per i bambini, facevamo Pinocchio, dove io facevo la volpe, e poi facevamo una cosa invece per i grandi, sempre per le scuole, dove facevamo i poemi di Majakovskij, dove io facevo il disturbatore. Sì, e poi ancora? E poi ho fatto, ecco, dove facevamo Beckett. Beh, Samuel Beckett. Samuel Beckett, dove facevamo Anatando Godot, aspettando Godot. E aspettando Godot io facevo Estragone. Che poi Godot è tutto, è l'avvenire, la felicità, sì, il Dio, può essere secondo appunto la fantasia dello spettatore. L'amore per il teatro non solo insegna a Rino a stare su un palco, ma gli fornisce gli strumenti che saranno utili al futuro cantautore. Da Samuel Beckett, ad esempio, prenderà la vena espressiva in bilico tra il surreale e il pessimista, condita sempre con un tocco di ironia. Anche artisti come Jannacci e Gaber, del resto, facevano del teatro canzone il proprio modo espressivo. E Rino, poco avvezzo a riempirsi la bocca con parole troppo serie o altisonanti, troverà in questo modo di esprimersi, intelligente, ma sempre un po' irriverente, giocoso, il suo veicolo preferito. La sagoma bianca striata dei faggi scordò la sua terra, scordò la sua casta, rimase una vecchia che salta con l'asta. Rino, terrorizzato da un futuro in giacca e cravatta, passa le proprie giornate con una chitarra in mano oppure registrando sul fedele quaderno le proprie impressioni sul presente che lo circonda. Intanto in Italia, come nel resto del mondo, è arrivato il 1968, l'anno della contestazione. Il fermento generale per Rino si traduce in un fecondo caos creativo che si trasforma ben presto nella consapevolezza di avere molte cose da dire. Ha voglia di esprimersi, ma ancora non sa bene dove. Un incontro del tutto casuale imprimerà una svolta alla sua giovane vita. In effetti è stata veramente una coincidenza che a raccontarla sembra quasi una sceneggiatura ingenua di un film. Io stavo, credo di ricordare che stavo tornando da Napoli quando entrai in un casello e vidi uno che faceva proprio classico Montgomery con la chitarra in spalla, con la custodia povera, e faceva l'autostop. Tra musicisti, capivo che era un musicista perché aveva la chitarra, mi sono fermato e dico: dove vai? Io vorrei andare a Roma. Ah, ma tu sei Lucio Dalla? Dico: sì, sì, tu. Io mi chiamo Rino Gaetano, e vorrei andare a Roma perché io faccio canzoni, vorrei cominciare a fare i dischi. E dico: ah, io vado a Roma. Avevo la Porsche, fra l'altro una Porsche aperta, la macchina stretta, lui entrò e siccome c'aveva la chitarra, dico: fammi sentire cosa fa. Il magnifico destino di un autostoppista si incrocia con quello di un cantante già affermato, niente meno che Lucio Dalla. È proprio a lui che Rino Gaetano, nel bel mezzo di una piazzola autostradale in un freddo giorno qualunque, fa sentire le sue canzoni. Dalla non può far altro che restare impressionato dal talento, forse ancora acerbo, ma certamente spiccato, del giovane che gli sta di fronte. La sensazione che provo tutte le volte che in qualche modo incontro Gaetano in una opera radio è sempre questa sensazione primaria che ebbi quando lo vidi la prima volta e lo conobbi, cioè sicuramente di un anomalo o di un alieno, di uno già diverso, perché i cantautori allora erano politicizzati con uno schema molto evidente. La cosa che mi piaceva di Rino era che era una specie di elemento folcloristico popolare. Lucio Dalla non è certo uno sprovveduto, sa riconoscere il valore di un cantante. Rino Gaetano gli fa uno strano effetto, un misto di tenerezza e curiosità. Quello che Rino comunica a Lucio, suonandogli i suoi pezzi con quella chitarra un po' sgangherata, è una sensazione in bilico tra la freschezza e l'ingenuità. La sua ispirazione è genuina, il suo modo di cantare è assolutamente diverso da qualsiasi altra cosa gli sia mai capitato di sentire. Questo ragazzo un po' bizzarro merita certamente una chance, e l'avrà molto prima di quanto pensi. I magnifici destini. Esiste forse un luogo più bizzarro di un casello autostradale per assistere all'inaspettato dispiegarsi del proprio magnifico destino? Ce lo chiediamo noi e se lo chiede inevitabilmente anche un giovanissimo cantautore alle prime armi, Rino Gaetano. È proprio qui, infatti, a un imprecisato casello tra Napoli e Roma, che in un pomeriggio qualunque Rino incontra per caso Lucio Dalla. Uno fa l'autostop con la sua ormai inseparabile chitarra in spalla e l'altro, a bordo della sua Porsche fiammante, lo nota e decide di dargli un passaggio fino a Roma. La vista di quella chitarra con la custodia consunta, portata come una reliquia da un ragazzo dall'aria timida e vagamente eccentrica, ha incuriosito Lucio, anzi di più, lo ha conquistato. Mi incuriosiva, per la verità, più lui, più il suo atteggiamento, che era veramente forse tipico della Zola, ma con qualche botta di stranezza in più. Innanzitutto la sua determinazione, io qui, io lì, io su, era molto convinto e piacendomi anche le cose che faceva, considerato che era un autostoppista, cioè Rino Gaetano l'ho conosciuto e venuto dopo, gli dissi: guarda, io sto lavorando con una casa discografica che è proprio una specie di abitacolo di cantautore, dove c'è De Gregori, dove c'è Venditti, dove c'è Cocciante, dove ci sono tutti questi che... e la casa era la Hit, che era la prima che cominciò a creare, anzi la prima, forse l'unica in quel periodo che lavorava con i cantautori. Rino, a dire il vero, alcuni di questi cantanti li conosce già, e di persona. Da qualche tempo, infatti, ha iniziato a frequentare il folk studio di via Garibaldi, nel quartiere di Trastevere. Nato nel 1960, il locale è diventato nel giro di pochi anni un punto di riferimento per la scena artistica della capitale. Di qui oramai passano jazzisti e musicisti di fama internazionale, non appena gli capita l'occasione di mettere piede nella città eterna. All'inizio Rino Gaetano va a Folk Studio in qualità di spettatore. Si siede lì e ascolta quelli che suonano, ne osserva la tecnica, le movenze, le caratteristiche. Annusa l'aria in un certo senso, respira l'atmosfera del palco e aspetta che arrivi il suo momento. Io e Rino ci siamo conosciuti nel 1970, non ricordo il giorno esatto, ma credo che fece la sua apparizione al Folk Studio, dove c'eravamo già noi. Quando diciamo noi, eravamo io, De Gregori e Giorgio Locascio. Io facevo il tassista e quindi accompagnavo di sera questi quattro cialtroni più gli amici che mi facevo. L'ultimo di questi è stato Rino e quindi era anche l'ultimo che io portavo a casa. La voce che avete appena sentito è quella di uno degli animatori più vivaci delle serate del Folk Studio, un ragazzo che ha iniziato a frequentarlo negli anni del liceo, nel pieno del clima della contestazione studentesca. Anche lui diventerà molto presto uno dei cantautori più apprezzati del paese, nonché uno dei più tipicamente romani. Lui, naturalmente, è Antonello Venditti. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove. Antonello Venditti, insieme a Francesco De Gregori e ad altri musicisti emergenti, anima le serate al Folk Studio cui partecipa anche Rino Gaetano. I due diventano subito amici e nasce fra loro anche una sorta di associazione di mutuo soccorso. Venditti lo accompagna a casa ogni sera. D'altronde, per andare in via Zara, dove abita Venditti, si deve passare dalla via Nomentana, che è proprio dove abita Rino. Ogni sera, una macchina stipata di giovani musicisti di belle speranze attraversa la città, sfrecciando fra i neon e l'asfalto, carica di sogni e di enormi aspettative. Io ero il più ricco, diciamo, apparentemente, di tutta questa banda dei cialtroni, e che aveva un'unica macchina, la mia macchina, che mi era stata regalata da mia nonna per la laurea. Era un maggiolone cabrio, quindi stupendo, però non c'avevamo i soldi per la macchina, per la benzina. La benzina la pagano un po' a turno, ci si arrangia come si può, l'importante è stare insieme e condividere una passione, quella per la musica, destinata ben presto a portare i suoi frutti. In una delle tante serate al Folk Studio, Antonello è rimasto letteralmente folgorato dallo stile peculiare di Rino. La prima volta in cui ha l'occasione di esibirsi nel locale, Rino stupisce tutti con i suoi testi giocosi e visionari, così strani e diversi da tutto quello che gira nell'aria in quel periodo. Le parole che sgorgano dall'immaginazione di Rino sembrano fare a pugni col clima cupo e teso di quegli anni difficili, anni in cui le canzoni e i cantanti impegnati sembrano avere la meglio su tutto. Rino era una specie di fantasma che girava come un folletto per tutti i locali di Roma, cercando amici, cercando persone con cui dialogare, al quale far sentire le canzoni. De Gregori e Venditti nel frattempo hanno avuto la fortuna di entrare in contatto con la IT, la stessa casa discografica che Lucio Dalla ha consigliato a Rino di bazzicare. I magnifici destini dei cantautori italiani in quegli anni passano tutti da quegli uffici, dove lavora Vincenzo Micocci, grande scopritore di nuovi talenti. Rino Gaetano l'ho conosciuto tramite De Gregori e Venditti. Micocci però non è convinto del fatto che Rino sia vendibile, parlando da un punto di vista strettamente discografico. I suoi testi sono criptici, l'ironia non sempre così immediata da cogliere. Il ruolo di Rino Gaetano alla IT inizialmente non è quello di cantante, ma di provinatore. Ascolta tutti quelli che passano di lì a registrare un pezzo, nella speranza che la loro carriera abbia una svolta inaspettata. È un lavoro che tutto sommato gli piace e gli permette comunque di continuare a frequentare quell'ambiente. Il suo amico Antonello Venditti, oltretutto, non ha alcuna intenzione di mollare il colpo. Sarà lui a convincere Micocci a dare a Rino una possibilità. C'era Micocci e diceva, ma che ci facciamo di questo strano personaggio? Ho detto, guarda, fammici lavorare. È così che nel 1973 viene prodotto il primo 45 giri di Rino Gaetano, I Love You Marianna. Il disco è prodotto dall'acronimo Ros V Mon, fusione dei cognomi di Aurelio Rossitto, Antonello Venditti e Piero Montanari. Venditti non ha mai smesso di credere in Rino e ci ha decisamente visto giusto. Rino è un cantante originalissimo, nel senso che non si rifà a nessuno, ma pensa soltanto a se stesso, ai suoi testi e al suo particolare stile compositivo. Non subisce più di tanto le influenze dei cantautori francesi, della musica inglese o americana. Certo, ascoltare quella musica gli è servito per crescere come artista, ma ora ha decisamente preso la propria strada. Nel 1974 esce il suo primo disco, Ingresso Libero, titolo che ironizza proprio sul suo ingresso ufficiale nel mondo della musica. Il discografico Vincenzo Micocci, comunque, ha ormai capito il grande valore di chi si trova davanti. Questo è un paese naturalmente di navigatori, un paese di santi, di eroi, cioè, ma anche di cantautori. Voglio dire, un artista serio, prima di arrivare veramente ad esprimersi, per farsi capire da tutti, per dire delle cose che siano vere, che siano sincere, a cui gli altri possano credere, voglio dire, bisogna fare un percorso. Il percorso di Rino è segnato, a differenza di quello di molti suoi colleghi, dall'ironia e dalla leggerezza, caratteristiche che attraggono l'attenzione di diversi appassionati sia di musica che di spiritosaggini, diciamo così. A Gianni Boncompagni, mattatore di alto gradimento e disco ring, un elemento come Rino Gaetano non potrà certo passare inosservato. Senti, no, io volevo dire, secondo te questo nuovo filone, se sarà un filone, cioè della canzone nonsense, sì, la canzone che non vuol dire niente, potrà soppiantare i vari filoni fino adesso? No, assolutamente no, perché è un altro spicchio di un altro spicchio di pubblico, un altro spicchio di modo di fare le canzoni, un'altra fetta della torta, so. Quindi credo che non invado nessuno. No, però la canzone, diciamo, politica, si chiamava I cantautori politici, forse sono un po' in ribasso, probabilmente, non lo so. Ma forse perché la politica che è in ribasso. Eppure Rino nel suo primo album non ha mancato di inserire testi con un diretto riferimento all'attualità come l'operaio della Fiat la 1100. La sua ironia non maschera affatto un vuoto di contenuti, anzi, è solo un modo diverso per parlare di cose serie, degli stessi problemi della società di cui si occupano gli altri cantautori più ortodossi. La catena è assai veloce e il lavoro ti ha condotto a odiare la 128, ma alla fine settimana il riposo ci fa bene. Noi andremo senza pensieri dagli amici a Moncalieri. Nel 1976, dopo il successo, anche se ancora un po' di nicchia, di Ingresso Libero, Rino pubblica il suo secondo album, Mio fratello è figlio unico. Crescono sempre più gli inviti a partecipare a trasmissioni televisive, nelle quali Rino di norma si presenta con look stravaganti. Uno su tutti quello da esploratore, con tanto di cappello e sariana da safari. Il pubblico ormai sta smettendo di guardarlo come un alieno, ancora però non lo sa che di lì a non molto quell'essere bizzarro salirà sul palcoscenico dell'istituzione canora più famosa d'Italia, il Festival di Sanremo. Mio fratello è figlio unico, perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto-Ancona. I magnifici destini. Vorrei presentarvi un amico che è venuto a trovarmi e che mi diverte perché è un po' l'erede di un certo tipo di nonsensi, di marinetterie del surrealismo più antico, e si chiama Rino Gaetano. L'effendi è quel signore che consuma abitualmente una tazza di petrolio alle 5 del pomeriggio. Rino Gaetano, giovane cantautore che usa l'ironia e lo sberleffo come arma dialettica, si aggira per uno studio televisivo vestito in tenuta coloniale da esploratore della savana, con un tocco di surrealità in più. Ha in mano il tubo di una pompa di benzina. Il brano che canta, quello che sentite in sottofondo, si intitola Spendi, Spandi, Effendi e ironizza sull'importanza, o meglio, sull'ossessione per il petrolio, decisamente attuale come tematica. Quando appare in TV per presentare il suo nuovo LP Mio fratello e figlio unico, arriva accompagnato da un cane. Il cane c'entra moltissimo perché l'LP nuovo si chiama Mio fratello e figlio unico e penso che niente esprime proprio il concetto di emarginato, di escluso, che è appunto questo mio fratello e figlio unico, meglio di un cane. Cioè il cane è la solitudine per eccellenza. Il discorso in fondo è sui poveri cani che siamo tutti quanti noi, abbastanza avulsi proprio dall'incontro umano e abbastanza soli. Cioè, praticamente siamo abbastanza messi da parte, un po' uno con l'altro. Alla faccia di chi crede che nelle canzoni di Rino Gaetano non ci sia traccia di introspezione sui destini delle società, i testi che scrive Rino, al contrario, non fanno altro che parlare della contemporaneità, solo che lo fanno in modo mascherato. Lo stesso discorso vale per l'irriverente Nun te regge più, pezzo costruito come un elenco impietoso di elementi della cultura nazional popolare. Ma è nato da un pacco di giornali. Cioè, è nato da un pacco di giornali, cioè nel senso... Dunque si fa così, si prende un pacco di giornali e si dividono le notizie politiche, le notizie sportive, le notizie d'attualità, le notizie di cronaca. Mm. Dunque si dividono, poi si prendono a caso, ecco, si prendono a caso e si scrive una canzone. Abbassare, non te regge più. Abbassare, non te regge più. Abbassare con le canzoni senza fatte e soluzioni, la castità. La verginità. Il successo travolgente di Nun te regge più proietta Rino al di fuori della nicchia e sulla ribalta nazionale. È proprio con questa canzone che vorrebbe partecipare all'edizione del 1978 del Festival di Sanremo, il palcoscenico più importante. La sua casa discografica, però, trova quel pezzo poco adatto alla ribalta sanremese. La scelta dunque ricade su quello che diventerà un intramontabile tormentone. La scanzonata Gianna. E adesso abbiamo la canzone numero 4 della categoria cantautori. Si chiama Gianna e la canta Rino Gaetano. Ecco Gianna. Gianna sul palco sanremese fa divertire tutti gli italiani, anche perché Rino si presenta accompagnato da una chitarrina e vestito di tutto punto, con tanto di cilindro in testa. La canzone arriva terza nella competizione ed entra di diritto nelle teste, nelle radio e negli stereo di tutto il paese. Gianna è una canzone che ha avuto un certo successo. Sì. Chi è Gianna? Ma Gianna è una ragazza, una quindicenne che si pone un grave problema. Mm. Cioè dice, che faccio? Mi politicizzo subito oppure aspetto di diventare prima donna e poi lo faccio. Ecco, allora è in questa dura lotta, così che alla fine non si risolve assolutamente perché fa tutte e due insieme. A partire dalla primavera del 1978, Rino diventa un cantante conosciuto su scala nazionale. Certo, i suoi testi e le sue esibizioni si accompagnano sempre a un brusio di polemiche. Forse anche un po' stufo di sentirsi un artista incompreso, nel 1980 Rino si fa aiutare da un celeberrimo paroliere, Mogol, per i testi del suo album E io ci sto. Colpiscono stavolta la serietà delle liriche e un approccio decisamente più rock e meno scanzonato. Mi alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto, penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso però, mi guardo intorno. L'ultima apparizione di Rino in TV risale al 31 maggio 1981. Due giorni più tardi, il 2 giugno, Rino sta tornando a casa con la sua macchina nuova. Finalmente, dopo il successo discografico, è riuscito a comprarsene una. Anzi, a dire il vero, quella macchina non è nemmeno la prima che si compra. Ne aveva distrutta una uguale contro un guardrail giusto qualche mese prima, in gennaio. Quella volta il destino gli aveva sorriso. Era uscito miracolosamente illeso dall'incidente. Stavolta invece le cose non vanno per il meglio. A bordo della sua nuova Volvo grigio metallizzato, Rino fa un frontale contro un camion alle 3 di notte, sulla via Nomentana, la stessa strada che faceva tutte le sere per tornare a casa. L'ambulanza con a bordo Rino in fin di vita inizia a quel punto un tour de force negli ospedali romani in cerca di un posto letto libero, uno sforzo che si rivelerà inutile. Pensare che Rino aveva dipinto una scena del genere in uno dei suoi brani, La ballata di Renzo. Quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada, quando un'auto veloce lo investì. La morte di Rino Gaetano a soli 30 anni è una notizia sconvolgente per l'opinione pubblica e per il mondo della musica. L'eco di quel tragico evento non si è ancora spenta oggi, così come non si è spenta la voglia di ascoltare le sue canzoni. Ce ne parla Mogol in persona. Se sono canzoni, alcune delle quali sono ancora vive, questo è la prova del 9, voglio dire, del fatto che sono canzoni adatte ad ogni tempo, ad ogni era, ad ogni stagione. Quello che conta nella cultura popolare è la possibilità di piacere alla gente tutta, vuol dire dai più colti ai meno colti, nel tempo. Questa è la grandezza dell'autore. Parola è impegnato, non impegnato, hanno scarso senso. L'anticonvenzionale Rino, abituato a dire sempre quello che pensava attraverso lo strumento dell'ironia e della dissacrazione, ha svecchiato e rinnovato per sempre la maniera di scrivere canzoni. Il suo magnifico destino si è compiuto attraverso i suoi pezzi, dentro la sua testa foderata da bizzarri cappelli e a bordo di automobili che non sempre gli hanno portato fortuna. La Porsche di Lucio Dalla, il Maggiolone di Antonello Venditti e la sciagurata Volvo che l'ha visto sveglio per l'ultima volta. Come sarebbe stato se lui avesse continuato in prima persona a comporre e a cantare? Ci sarebbe piaciuto se il cielo fosse stato sempre più blu.